Ci sei, Simo? Che ho il telefono col mio amico. Ehi, devo cosa serrai? Pagappa. Anche Alberto, ho sentito niente, ma mi sa che la Scallone dice che ce la fare l'imbarco a Civita di Castavella, vi? Beh, quello è sicuro, se sai dovrebbe imbarcare, ce la fai. Non so che ora parte la nave, devo sentirmi quasi quasi di chiamarlo, magari mi fermo qui e mi faccio la mezz'ora e nel frattempo mi faccio portare il rimorchio da te. Sì, prendilo. Prova a chiamarlo. Ah, beh, non mi risponde, già. Ma che va adesso, mi fermo, non so dove fare la Audi, veramente non.